È meraviglioso riunirci insieme come Chiesa e confessare la verità che il nostro Dio è grande. E siamo riuniti sotto l'autorità più grande, l'autorità del nome di Gesù. E questo è quello che Dio stabilisce, che la Chiesa si riunisca. Quindi grazie di essere qui perché stai seguendolo in obbedienza alla volontà di Dio. E la parola di Dio stabilisce che la Chiesa riunita deve riunirsi sotto una sola autorità e sotto un solo nome. E il nome è Cristo Gesù. Il capo della Chiesa è Cristo Gesù. Lo sposo della sposa, che è la Chiesa, è Cristo Gesù. Il pastore, il sommo pastore della Chiesa, del gregge di Dio, è sempre Cristo Gesù. La pietra angolare che regge l'edificio vivente che è fatto di pietre viventi che siamo noi è Cristo Gesù. E lui è al centro, e lui è al capo, e lui in comando, e lui in autorità, e noi siamo riuniti nel suo nome. Siete d'accordo con me? È bellissimo poterlo fare ed è bellissimo poterlo fare in una nuova stagione, quale quella che stiamo vivendo, che è una stagione dove entriamo in azione come Chiesa. Ci sono tante cose che stiamo vivendo e io sono entusiasta di questa stagione perché è una stagione nella quale il Signore ci sta dando modo di riprenderci con pieno vigore tutto ciò che appartiene a noi come Chiesa qui a Modugno. Nonostante l'emergenza non sia ancora finita, noi come Chiesa abbiamo stabilito che questo è un tempo nel quale noi andiamo avanti di gloria in gloria, continuando quello che è il percorso che Dio ha stabilito per le nostre vite e per la comunità tutta, per quello che noi significhiamo quale Chiesa. E quindi in questa stagione stiamo vivendo tante cose che ci stiamo riprendendo, avendo la possibilità anche di fare nelle prossime 3 settimane, nei prossimi 3 weekend, noi andremo a vivere dei ritiri, perché grazie a Dio possiamo riviverli. E a luglio posso vedere le persone che a luglio hanno partecipato ai ritiri, anzi, vi potete alzare in piedi, vedete le facce di queste persone, fatevi vedere, Nicola, fatti vedere, giratevi un attimo, salutate la Chiesa. Non sono meravigliose queste persone, vogliamo fare un applauso a loro. Grazie, vi potete accomodare. Nei prossimi weekend, il prossimo weekend avremo il ritiro degli uomini e l'altro ancora avremo il ritiro delle donne, e poi avremo un ritiro di un giorno per il team di lode e faremo ritiri anche il prossimo mese per tutti i capigruppo e andremo avanti nell'appartarci per scegliere di vivere una dimensione di intimità più profonda con Dio. Ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno. Oltre l'oretta e mezza che viviamo la domenica, abbiamo bisogno di appartarci e decidere di chiuderci e stare insieme con qualcun altro alla ricerca della presenza di Dio. E la parola di Dio dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Io, parafrasando questo verso, lo traduco in questa maniera: nella misura con la quale tu ti avvicini a Dio, Lui sarà vicino a te. Quanto più fai sul serio con Dio, tanto più Dio farà sul serio con te. Tanto più tu vorrai la vicinanza sua, tanto più la manifestazione della potenza e della sua autorità nella tua vita sarà tangibile. È una scelta ed è la scelta di entrare in azione. E io voglio invitare la Chiesa, tutti voi, a scegliere in questa stagione di non farti limitare, anche attraverso la lettura che faremo oggi e quello che andremo a vedere insieme oggi, attraverso la lettura quotidiana. Noi la vogliamo lasciarci guidare in azione in quello che Dio ha in mente per noi. Nel mese di ottobre avremo tante cose bellissime che sono il risultato dell'azione di persone che scelgono di fare sul serio con Dio. Primo fra tutti, voglio citarlo, i battesimi. Vogliamo fare un applauso per tutti coloro che si battezzeranno, perché questa è una scelta in azione di dire: io appartengo a Cristo, la mia vecchia vita la lascio e entro nella nuova vita che Dio ha per me, con l'atto pubblico di battezzarmi in acqua. E poi vivremo un'altra cosa molto importante nel mese di ottobre. Sapete che abbiamo sospeso e fermato tutti i gruppi perché non ci basta fare e portare avanti i gruppi in casa. Lo vogliamo fare al meglio delle nostre forze, lo vogliamo fare con pieno vigore e pienezza di Spirito Santo, affinché i gruppi familiari siano contesti dove avvengono miracoli, segni e prodigi e dove si sperimenta la presenza di Dio. Siete entusiasti con me di questo? Questo è quello che vogliamo recuperare. Non ci basta fare delle buone attività. Vogliamo fare delle buone attività bene. Non ci basta avere dei gruppi, vogliamo avere dei buoni gruppi che fanno quello che è stabilito, che la Chiesa faccia e viva quando si ferma, prega insieme, intercede, si cura reciprocamente. E quindi abbiamo annullato tutti i gruppi, abbiamo fermato ogni attività di gruppo in casa e tutti i capigruppo hanno fatto un importante appuntamento la scorsa settimana per dire ripartiamo da zero, perché vogliamo ripartire con una ripartenza fresca, con una partenza vigorosa e guidata dallo Spirito Santo. E per l'intero mese di ottobre, ogni settimana ci incontreremo con tutti coloro che rinnovano la loro scelta di essere capigruppo per cercare lo Spirito Santo, per equipaggiarci, per trovare nuove forze, nuovo vigore e per prepararci ad una nuova stagione dove apriremo i gruppi e lo faremo a fine anno, non lo faremo nell'immediato, perché i primi che devono essere pronti devono essere i capigruppo. I secondi ad essere pronti sono i partecipanti dei gruppi e io già anticipo che ci saranno pochi gruppi, non ci saranno gruppi per tutti, perché i capigruppi sono di meno, però quelli che avremo saranno straordinari e per entrare a far parte di un gruppo faremo un'attenta selezione, perché vogliamo veramente persone che sono motivate a essere parte di un gruppo e ad attivarlo a pieno vigore. Vi piace questo? Siete contenti e d'accordo con questo? Quindi nessuno si offenda se non entrerai a far parte di un gruppo, ma voglio dire questo, se senti nel cuore che il Signore ha in mente qualcosa di nuovo da farti fare e forse questa nuova cosa che Dio vuole farti fare è guidare un gruppo in casa, allora vieni subito a parlarmene, vieni subito a dirmelo, perché avrai il tempo di un paio di settimane per inserirti con i capigruppo che già hanno scelto di rinnovare il loro impegno per l'anno che gli sta davanti e vivere insieme a noi questo percorso nel mese di ottobre, che prevederà anche un ritiro di tutti i capigruppo. Ci piace questo? Se ci piace, vogliamo alzarci in piedi e affidare tutto questo al Signore, perché sapete, tutto questo nasce dalla preghiera, tutto quello che ho appena descritto è ispirato dallo Spirito Santo. E il successo, il pieno successo della nostra Chiesa dipende dall'intervento dello Spirito Santo. Quindi vorrei invitare tutti noi a pregare per la Chiesa e per questa nuova stagione. A non farlo fare a me, perché io sto perdendo la voce a fare le preghiere a Dio per questa nuova stagione per la Chiesa. E so che altri con me la stanno perdendo. Ma voglio invitare tutti voi, tutti coloro che sono presenti qui, dalla prima all'ultima fila, da chi è su in regia e chi è nell'atrio e sta servendo nell'accoglienza. Vogliamo intercedere per la nostra Chiesa, perché sapete una cosa? Se la nostra Chiesa è potenziata dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo permette alla nostra Chiesa di essere una luce dirompente, tutti ne beneficeremo, e non solo, anche i nostri parenti, anche i nostri amici, anche i nostri concittadini di Modugno e anche la nazione e addirittura le nazioni saranno influenzate. Per questo è cruciale che noi preghiamo affinché la Chiesa viva una nuova stagione di risveglio. Amen. Vogliamo pregare insieme? Quindi dalla prima all'ultima fila alza la tua voce, non essere timido, non pensare a quello che a chi ti sta a fianco, e intercediamo affinché Dio faccia grandi cose in questa stagione nella Chiesa. Forza Chiesa. Grazie Gesù per quello che vuoi fare nella Chiesa in questa nuova stagione. Intervieni nella Chiesa, Signore Gesù. Potenzia la Chiesa, Signore Gesù. Potenzia coloro che tu stai chiamando a fare la differenza nella Chiesa in questa stagione. Chiama, Padre, profeticamente, dai nuova motivazione, Signore Gesù, nuovi desideri, nuova visione, Signore Gesù, Dai forza alla nostra Chiesa di impattare i giovani, di raggiungere i bambini, di salvare, portare salvezza delle famiglie, di recuperare matrimoni, di portare a salvezza coloro che sono perduti. Signore Gesù, dai forza alla Chiesa di essere quella luce dirompente in una società buia e persa, in un mondo malato e disperato. Signore, prego che la Chiesa di Modugno, qui a Modugno, possa essere una luce per le nazioni, e ti prego di rafforzare ogni credente che fa parte di questa Chiesa, qui a Modugno e anche a Mottola, nel nome di Gesù. E grazie, Padre, per quello che farai, grazie per quello che hai in mente di fare nei ritiri, Signore Gesù, grazie per quello che hai in mente di fare nel mese di ottobre. Io prego nuova potenza, nuova autorità in ciascuno dei tuoi figli, per una stagione dove andiamo di gloria in gloria, che la gloria precedente non sia una nostalgia che viviamo, ma che possiamo essere attratti dalla gloria che ci sta davanti, perché è una gloria maggiore che tu hai in serbo per noi. Nel nome di Gesù prego tutto questo. Alleluia, grazie perché stai ascoltando le nostre preghiere. Grazie Gesù per come ascolti le preghiere. Alleluia Gesù, grazie. Grazie Gesù. Grazie, Padre, perché ascolti queste preghiere. Alleluia, Gesù, grazie, perché nessuna di queste preghiere ti lascia indifferente, Signore. Tu sei interessato alla Chiesa. Siamo Tuoi. E noi vogliamo dirti questo, Gesù. Sia fatta veramente la Tua volontà attraverso di noi, affinché la società che ci circonda possa conoscere l'autorità del nome di Gesù attraverso la Chiesa. Noi preghiamo per i bambini, noi preghiamo per le famiglie, noi preghiamo per gli adolescenti, noi preghiamo per i giovani, noi preghiamo per i matrimoni, noi preghiamo per le persone anziane, noi preghiamo per chi è solo e per chi è disperato, noi preghiamo per chi è nelle dipendenze, noi preghiamo per chi è schiavo, noi preghiamo per chi è nelle paure, noi preghiamo per chi è una pecora perduta che Tu vuoi recuperare, Signore Gesù. Dai forza alla Chiesa per vivere la missione che Tu ci hai affidato. Nessuno di noi è sufficiente a se stesso nella missione che Tu ci affidi. Abbiamo bisogno del Tuo Spirito Santo. E io prego Te, Spirito Santo, di scendere nella Chiesa e di potentemente dare doni e potenziare ciascuno di noi in una stagione di risveglio. Nel nome di Gesù io lo prego per il ministero di lode. Io lo prego per i capigruppo e per ogni gruppo che andremo ad aprire. Lo prego per il ministero dei giovani, Signore Gesù, e per gli upside down. Insieme lo preghiamo per Mottola, Gesù. Insieme lo preghiamo, Padre, per ogni area di servizio. Gesù, che la Tua volontà possa essere manifestata attraverso un esercito di uomini e di donne che Ti appartiene e si sottomette a Te e si muove sotto la Tua potenza. Alleluia, Gesù. Amen. Amen. Amen. Ci accomodiamo. Bellissimo pregare insieme. È bellissimo leggere insieme in questo mese il libro degli Atti degli Apostoli, perché è di incoraggiamento e di ispirazione. Io voglio ricordarci che non stiamo leggendo la storia di uomini straordinari che avevano forza in loro stessi perché erano dei supereroi caduti dal cielo. No, stiamo parlando di uomini e di donne come noi, che avevano una caratteristica, la pienezza dello Spirito Santo nella loro vita. E quella pienezza ha determinato segni, miracoli e prodigi nelle loro vite e a beneficio di molte altre vite. Ed è questo quello che il Signore vuole fare in noi e attraverso di noi. Oggi ci troviamo in Atti 22, Nicola lo sa bene. Quanti con lui lo sapevano, sinceramente? Quanti si sono persi nella lettura? Signore ti perdona, Signore ti ama lo stesso. Oggi leggiamo insieme Atti 22 e andremo a commentare questa meravigliosa storia. Quindi chiedo a Davide. Davide, hai messo tutti i versi? Sì? Hai inserito tutti i versi? Allora posso leggere insieme a voi dallo schermo. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. È l'Apostolo Paolo che parla a Gerusalemme. Quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Poi disse: io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele, nella rigida osservanza della legge dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi. Perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Avuto da loro delle lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. Caddi a terra e udii una voce che mi disse: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io rispose: «Chi sei, Signore?» Ed egli mi disse: «Io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti!» Coloro che erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Allora dissi: «Signore, che devo fare?» E il Signore mi disse: «Alzati, va a Damasco e là ti saranno dette tutte le cose che ti è ordinato di fare». E siccome non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me. E così giunsi a Damasco. Un certo Anania, un uomo pio, secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza, venne da me e, accostatosi, mi disse: «Fratello Saulo, recupera la vista». E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Egli soggiunse: «Il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E ora perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me». E io dissi: «Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano. Ma egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano, tra i popoli». Lo ascoltarono fino a questa parola. Poi alzarono la voce dicendo: «Togli via dal mondo un uomo simile, perché non è degno di vivere». Come essi gridavano e gettavano via i loro vestiti e lanciavano polvere in aria, il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza e che venisse interrogato mediante tortura, allo scopo di sapere per quale motivo gridassero così tanto contro di lui. Quando lo ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato?» Il centurione, udito questo, andò a riferirlo al tribuno, dicendo: «Che stai per fare? Quest'uomo è romano». Il tribuno andò da Paolo e gli chiese: «Dimmi, sei romano?» Ed egli rispose: «Sì». Il tribuno replicò: «Io ho acquistato questa cittadinanza per una grande somma di denaro». E Paolo disse: «Io invece l'ho di nascita». Allora quelli che stavano per sottoporlo a interrogatorio si ritirarono subito da lui, e anche il tribuno, sapendo che egli era romano, ebbe paura perché lo aveva fatto legare. Il giorno seguente, volendo sapere con certezza di che cosa egli fosse accusato dai giudei, lo liberò e ordinò ai capi di sacerdoti e a tutto il sinedrio di radunarsi, e condotto giù Paolo lo fece comparire davanti a loro. Abbiamo letto insieme Atti 22. Quindi oggi a casa puoi pure evitare di leggerlo perché te l'ha letto il pastore. Domani però c'è Atti 23 e ti invito a leggerlo, anche perché è un capitolo meraviglioso. Cosa abbiamo letto? E cosa mi colpisce della figura di Paolo, di quest'uomo? Che cosa mi sta toccando in questi giorni di quest'uomo di fede che è chiamato dall'essere un terribile terrorista ad essere un seguace di Cristo, un seguace della via? Mi colpisce il coraggio di quest'uomo. mi colpisce il coraggio, non so a te, ma a me colpisce questo coraggio. Perché quest'uomo, non so se vi ricordate, si ritrova a Gerusalemme per una scelta coraggiosa, fatta nonostante una parola profetica che gli fu rivolta. E fratelli che lo esortavano e lo incitavano a non andare a Gerusalemme. Vi sto ricordando quello che abbiamo letto ieri. E quello che accade nella lettura del capitolo di ieri, nel capitolo 21, è straordinario, perché Paolo si ritrova solo a fare una decisione coraggiosa davanti a una parola profetica che vi voglio leggere, perché questa parola profetica gli viene rivolta in questi termini: a Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Il profeta aveva preso la cintura dell'apostolo Paolo e stava dicendo all'apostolo Paolo: guarda che questo ti accadrà se vai a Gerusalemme. Quando udimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Ascoltate Paolo. Paolo rispose: che fate voi? Piangendo e spezzandomi il cuore, sappiate che io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Non è straordinario? Beh, questo aprirebbe tutto un capitolo sul profetico che non sto ad aprire, però è molto importante l'interpretazione che noi diamo del profetico e l'esaminazione del profetico che noi diamo. L'apostolo Paolo qui, davanti a una parola profetica e l'invito dei fratelli, avrebbe potuto scegliere di non andare a Gerusalemme, invece va a Gerusalemme. Viene perseguitato e viene battuto, noi lo leggiamo nel capitolo precedente. E poi, dopo che viene battuto e sta rischiando la morte, i romani vengono per arrestarlo e gli salvano la vita. E nell'arresto, durante l'arresto, l'apostolo Paolo che cosa fa? Non dice: sì, portatemi via subito di qui perché stanno queste persone che mi stanno battendo e faranno di tutto per uccidermi. No, lui chiede ai romani che lo stanno arrestando: ferma, concedetemi la possibilità di rivolgere delle parole a questi miei persecutori. E uno ci si aspetterebbe un discorso dall'apostolo Paolo per farla franca. Un discorso nel quale lui cerca di accattivarsi l'attenzione di tutti e far cambiare loro idea sulla loro intenzione di ammazzarlo. Uno si aspetterebbe un discorso che addolcisce gli animi, che rasserena la condizione generale. Invece l'apostolo Paolo che cosa fa? Prende parola, e prende parola per una ragione. Prende parola non per farla franca e per conquistarsi gli animi delle persone, ma per seminare ancora una volta l'Evangelo di Cristo. Nomina subito Gesù Cristo, nomina quello che gli è accaduto, racconta la sua storia, racconta la sua testimonianza. Io sono convinto che l'apostolo Paolo fosse pienamente consapevole che quelle persone tutto avrebbero voluto ascoltare, tranne il fatto che lui aveva incontrato Gesù Cristo ed era Gesù Cristo che gli aveva parlato. Ed era perché lui gli aveva parlato che Paolo faceva quello che faceva, portando l'Evangelo in ogni parte del mondo ad altri giudei. Nella vita noi possiamo scegliere di farci guidare dalla paura, o possiamo scegliere e decidere di farci guidare dalla fede. Questa è la mia conclusione. Leggendo questi capitoli, io mi rendo conto che la vita di un uomo può essere condizionata da mille paure. E anche la vita di uomini straordinari, quella dell'apostolo Paolo, non era priva di occasioni nelle quali viveva paura. La forza dell'apostolo Paolo è combattere, sfidare la paura, anche la paura più temibile, la paura della morte, con il coraggio che proviene dalla fede. Fratelli, sorelle, chiesa, io credo che il Signore ci sta invitando a fare una scelta. In questo tempo, alla luce della stagione che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, alla luce della società che ci circonda, alla luce di tutte le cose alle quali noi siamo esposti giornalmente, il Signore parla con un linguaggio diverso. E quando ci porta la lettura di Atti 22, quello che Lui ci invita a vivere è la vita straordinaria di uomini e donne di fede che non sono pilotati, guidati, schiacciati, limitati, frenati dalla paura, ma che sono mossi e conquistano e vanno avanti attraverso la fede. Chi sta guidando la tua vita? Chi sta guidando le tue scelte? Io me lo chiedo, chi sta guidando le mie scelte ogni giorno? È la paura o è la fede in Cristo Gesù? Sono le situazioni che mi circondano e quello che pensano la maggior parte delle persone, o è l'ispirazione di quella voce che viene dall'alto, che ha guidato l'Apostolo Paolo fino a rischiare la morte più di una volta? Viviamo in un mondo di paure. Siamo esposti alla paura. Tutti noi abbiamo delle paure. Paure finanziarie, economiche. Sebbene viviamo in una porzione del globo dove di tutto avremmo di che lamentarci, fuorché dell'economia. Viviamo paure che hanno a che fare con la malattia. Abbiamo paure che hanno a che fare con il rimanere soli. Abbiamo la paura di soffrire. Abbiamo la paura che la sofferenza possa prolungarsi nel tempo. Abbiamo la paura di vivere responsabilità. Abbiamo mille paure. E io oggi voglio incoraggiarti attraverso la parola di Dio e voglio riportarti a quello che è il piano di Dio per la tua vita. Perché Dio ti chiama fuori dalle paure ad una vita coraggiosa. La vuoi ricevere, la vuoi far tua. Sei qui nel momento giusto, nel posto giusto, per sentire delle parole che io sono convinto che ti faranno uscire da questa sala con la ferma convinzione che non hai nulla di che temere, perché il Signore è con te e questo è ciò che fa la differenza. Vuoi vincere la paura? Fidati di Dio. Vuoi vincere la paura? Beh, parliamo di cose pratiche, voglio essere molto pratico attraverso questo mio messaggio. Riconoscile, prima di tutto, riconosci quali sono le tue paure. L'Apostolo Paolo, davanti alla parola profetica, avrebbe potuto benissimo dire, ok, mi hai colto in fragranza, esatto, questa è la mia paura. Essere legato, essere imprigionato, essere torturato, essere ammazzato. Invece l'Apostolo Paolo dice, no, io ho già fatto una scelta. Ho scelto di rinunciare alle paure. Ho scelto di rinunciare a questi elementi che possono portare in ogni persona comune a chiudersi in una vita piccola. Io ho scelto di rinunciare a queste cose per vivere la grande vita che Dio ha in mente per me. Un'autrice ha scritto: la vita di un uomo si espande o si restringe in proporzione al proprio coraggio. La tua vita può essere molto piccola o la tua vita può essere molto grande. E ciò che determina questa differenza è la presenza del coraggio. Perché vi parlo di coraggio? Perché nomino questa parola più della parola fede? È perché coraggio proviene dalla fede. E quando parliamo di fede stiamo includendo il coraggio. Ma nomino questa parola perché, sapete, nella lettura che avremo domani, dopo che l'Apostolo Paolo viene imprigionato per una seconda volta, dopo aver parlato agli anziani, in questo carcere Gesù riappare nella sua vita. E noi leggiamo in Atti 23, versetto 11, che la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse, ascoltate ora, fatti coraggio. Deve essere stata una cosa straordinaria. Deve essere stata una cosa straordinaria. L'Apostolo Paolo era solo in carcere. Non era come in precedenza con Sila, con un altro compagno di viaggio. Era solo davanti alle sue paure. Ed era solo forse anche nelle sue incertezze. Ed è Gesù che appare in quella cella e gli dice: fatti coraggio. Gesù appare nelle nostre celle. Gesù appare e lo possiamo vedere. Lo possiamo vedere stamattina nel mezzo delle nostre angosce, nel buio pesto di una prigione, di un carcere romano. E sai cosa ti dice Gesù in quello che stai attraversando, in quello che stai vivendo, nei cambiamenti che ti stanno davanti, nelle sfide che devi scegliere di vivere? Gesù ti dice: fatti coraggio. Non è meraviglioso? Ti dà una pacca sulla spalla e ti dice: fatti coraggio. E poi aggiunge: perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Fatti coraggio, perché c'è qualcosa che ancora io ho da farti fare. Sapete, fin quando noi stiamo al centro della volontà di Dio e le nostre vite sono guidate e sono sottomesse pienamente a Lui e alla Sua volontà, non abbiamo nulla di che temere, perché nulla di quello che ci accadrà è fuori dalla sua portata, è fuori dal suo perimetro di intervento in noi. Lui è sovrano in ogni cosa, ma in modo particolare nelle vite arrese a Lui, Lui fa cooperare ogni cosa al bene. E se tu hai una vita che è completamente arresa a Lui, non ti poni più il problema di avere paure. Molte delle nostre paure hanno a che fare con il nostro ego, la paura di fallire, è il nostro ego, la paura di avere successo, è il nostro ego, ci mettiamo sempre noi al centro, la paura di essere rigettati, è il nostro ego, la paura di avere una perdita, di perdere qualcosa, di perdere una stabilità, è sempre il nostro ego, siamo sempre noi al centro. La paura dell'incertezza è il nostro ego. Quando abbiamo il controllo ed è tutto attorno a noi e siamo così pieni del nostro ego, le nostre paure aumentano, non diminuiscono. Invece nel momento in cui tu ti arrendi e dici: per me vivere è Cristo e morire è guadagno, come l'Apostolo Paolo diceva. Le mie giornate sono già segnate. C'è qualcosa che mi accadrà? Nulla di ciò che mi accadrà è fuori dalla volontà di Dio, perché io sto seguendo Lui. E Lui è dalla mia parte. E io sarò un uomo coraggioso. Vedete, la fede e la bellezza di vivere una fede sta proprio nel fatto che anche quando ti accadono le cose, non ne sei schiacciato. È una bugia quella che a volte si insinua nella mente del credente, che lo porta a credere che se ho fede nulla di male mi accadrà. No, se hai fede determinate cose accadranno, ma saranno pienamente nella volontà di Dio e non sarai mai solo e Dio sarà con te per darti un passaggio di gloria in gloria, dalla gloria precedente ad una gloria successiva. Anche le tragedie più grandi sono per i credenti arresi a Dio un'occasione di crescita, un'occasione di gloria, un'occasione di testimonianza e un'occasione di vittoria. Fatti coraggio, fatti coraggio, riconosci le tue paure, nominale, dagli voce. La paura si insinua nella mente e la paura è come una muffa. Se non viene esposta dell'aria che viene riciclata e non si interviene, cresce. Ma nel momento in cui tu esponi la muffa e cambi aria, quella muffa si ferma e puoi intervenire per annullarla del tutto. Riconosci quali sono le tue paure. Sapete, c'è una ricerca che dice che il 40% delle nostre paure non accadranno mai. Posso incoraggiarvi così questa mattina? È una ricerca, non l'ho fatta io, ma dati statistici dicono che il 40% delle nostre preoccupazioni, ora pensa a tutte le preoccupazioni che hai, togli da queste il 40% e puoi avere la garanzia che quel 40% non accadrà mai. Il 30% non hanno a che fare con fatti accaduti nel passato. Tu stai vivendo probabilmente oggi delle paure che hanno a che fare con dei traumi passati, con delle cose che sono accadute nella tua infanzia o che sono accadute dietro di te, ma il Signore ti dice: non hai ragione di temere, perché il tuo presente e il tuo futuro è nelle mie mani. Siamo al 70%, hai 70% di paure che non hanno senso di esserci nella tua vita. E poi c'è il 12% delle nostre paure che riguardano la vita di altri. Il 12% è una buona percentuale. E in un mondo nel quale viviamo, dove c'è tanta comunicazione, dove tutti noi siamo sui social e dove tutti noi possiamo seguire la storia di migliaia di vite e ascoltiamo migliaia di disgrazie, questa percentuale viene alimentata. Perché tu hai la possibilità di confrontarti con altre sciagure, molte altre più sciagure, e se non filtri quello che accade agli altri nella giusta maniera, rischi di accomodare nel tuo cuore, nella tua mente, delle paure che hanno a che fare solo con storie di altre persone a cui Dio dà la forza di affrontare quelle cose. Quali storie stai ascoltando? Siamo arrivati all'82%, ma c'è ancora un 10% che ha a che fare con malattie vere o immaginarie, ma malattie che non hai. Ci sono tante malattie. Ci sono tante malattie vere. E poi ci sono tante malattie false. Addirittura abbiamo la creatività di inventarci, no? Quale male ci può capitare? E la paura della malattia sta bloccando la tua vita, il tuo respiro, il tuo essere sano, il tuo poter entrare in azione, il tuo poter uscire, il tuo poter adempiere la volontà di Dio. Solo l'8%, ci è rimasto solo l'8%. Solo 8% delle nostre paure sono realistiche e potrebbero avverarsi. È incoraggiante, no? Dici, vabbè, ma come faccio ora a definire se non sono proprio quelle che io ho e che mi stanno bloccando? Le paure realistiche sono quelle necessarie per farci agire in una maniera sana. La paura di prendere una multa è una buona paura. È la paura di cadere quando indossi i tacchi da 20. È una buona paura. Sono paure realistiche e ci sono. E hai ragione di averle se stai guidando una macchina, se stai indossando dei tacchi. ma non far tue paure che non ti appartengono. Io voglio concludere incoraggiandoti a sfidare le tue paure. Come si vincono le paure? Alimentando la fede, facendo quello che stiamo facendo insieme oggi, aprendo la parola di Dio e scoprendo quello che sono le verità sue. Sostituisci ad ogni paura che hai e che riscontri nella tua vita verità bibliche e comincia a confessare ciò che Dio dice nella parola di Dio, nella sua parola. Hai paura di rimanere solo? Ci sono promesse ripetute nella parola di Dio che non sarai mai solo perché Lui è con te. Hai paura della malattia? Puoi confessare il fatto che Gesù è la tua guarigione e Lui ti protegge, Lui ti permette di attraversare ogni sfida, anche quella della malattia. Hai paura del cambiamento? E puoi dire: Signore, Tu sei il mio pastore, Tu mi guidi, Tu sei a guida della mia vita, non voglio essere disorientato. Puoi sostituire a ogni paura che vivi verità bibliche. C'è un altro modo affinché tu possa vivere una vita di coraggio, e lo vediamo dall'apostolo Paolo: non farti frenare e non rimanere seduto su una sedia. Quest'estate con mia moglie siamo andati a Santa Maria di Leuca, abbiamo preso un tour in barca, e in questo tour di barca ci hanno fatto vedere diverse grotte. E tutte le grotte le vedevamo dalla barca ed era comodissimo, era sicuro, e lui entrava anche nelle grotte, si avvicinava alle grotte, poi spiegava. Ma a un certo punto si è fermato, ha lanciato l'ancora e ha detto a noi: ora potete nuotare e vedete quella piccola grotta? Potete entrare dentro, e all'interno della grotta c'è una spiaggetta. Il mare era agitato e quindi delle persone che erano in barca, una quindicina, solo un paio si sono lanciate. Io ero tra queste. E quando mi sono lanciato ero convinto: ora entrerò nella grotta e vedrò questa splendida spiaggetta. Ma mentre nuotavo e c'erano le onde e incameravo acqua, non volevo far altro che tornare in barca. Ma sapevo che tutti mi stavano osservando a quel punto, e quindi ero a metà strada tra la barca e la grotta, ma la grotta non era altro che un piccolo buco, buio, e non sarei mai entrato, e quindi ho finto di fare la mia perlustrazione con la maschera, quindi ho chiesto a mia moglie di lanciarmi la maschera, e quindi guardavo attorno, ho fatto il subacqueo, perché avevo paura di entrare nella grotta. Non sarei mai entrato in quella grotta. Mi ero convinto che quella grotta, anche se qualcuno mi aveva dato informazione che c'era una bella spiaggia dentro, incuteva solo terrore, perché vedevo queste onde che si scagliavano verso questo buco, questa apertura. Ma poi a un certo punto, mentre nuotavo, ho notato che c'era un gruppo di ragazzi che scherzavano, che erano allegri e che si dirigevano verso il buco di questa grotta con piena confidenza. E li ho visti, erano più piccoli di me, erano ragazzini a cui posso insegnare tante cose nella vita. E lì l'orgoglio maschile ha avuto la meglio. E vedendo loro entrare con tanta sicurezza nella grotta, mi sono fatto forte. Ho seguito i piedini di quei ragazzini lì che tanto mi davano sicurezza in quel momento. Ho detto: loro conoscono la via. Loro sanno esattamente cosa c'è in quella grotta, e sono entrato nella grotta. E nel momento in cui sono entrato, mentre fuori dalla grotta non si appiedava, dentro la grotta potevi mettere i piedi e goderti la vista di una straordinaria spiaggetta. I ragazzi erano festosi, allegri, uno ha acceso la torcia, ci ha fatto vedere la grandezza della grotta e poi a un certo punto l'ha spenta e ha detto: c'è un'altra cosa che potete vedere, seguitemi nel buio. E io a quel punto ho detto: vabbè, la mia conquista l'ho fatto. Dalla barca hanno visto che sono entrato nella grotta. Non devo dimostrare più niente a nessuno. Ma a quel punto la curiosità ha avuto la meglio. Questi ragazzi sono entrati seguendo questa guida. Sono entrati in un cunicolo basso, stretto. E lui diceva: abbassate la testa, non si vedeva niente. Aveva spento la torcia. Fidatevi di me. E io rimanevo là fuori, in ammollo, a vedere cosa accadeva. E poi mi sono fatto coraggio, ho detto forse c'è qualcos'altro che c'è da vedere in questa grotta. Li ho seguiti, mi sono fatto piccolo, sono entrato in questo cunicolo e a un certo punto quest'uomo ha acceso la luce e c'era un'altra grotta nella grotta con un'altra spiaggetta ed era straordinario perché ti giravi e vedevi la piccola luce che filtrava dall'esterno della grotta. Ed eri in questo luogo che era calmo, non sentivi l'agitarsi delle onde, ed eravamo lì tutti sereni. Sono tornato in barca e ho detto a mia moglie, hai visto che marito coraggioso che c'hai? Qual è stata la forza del mio coraggio? Non rimanere solo. Stare insieme a qualcuno che sapeva che cosa stesse facendo. E forse nelle tue paure, il Signore questa mattina ti vuole incoraggiare e dire, sai che ci sono tanti altri che hanno affrontato la tua stessa paura di questo momento e l'hanno vinta, vai da loro, e alleati con loro, c'è speranza per il tuo matrimonio. C'è speranza per quelle cose che adesso ti tengono frenato e ti incutono timore e ti portano a non fare scelte, a non muoverti perché temi la sofferenza. C'è speranza per te perché sei parte di una chiesa fatta di uomini e donne straordinarie, uomini di fede, donne di fede, uomini di coraggio, donne di coraggio. Loro ti faranno strada se tu lo vuoi, non rimanere solo. Riconosci le tue paure. Affrontale con altre e vivile in preghiera. Questo io voglio dirti e voglio invitare ciascuno di noi ad alzarsi in piedi, perché vogliamo pregare. Forse mentre parlavo riconoscevi diverse paure nella tua vita, forse anche una sola, e il Signore è qui per dirti fatti coraggio, e Lui vuole intervenire nella tua vita. Lui è reale, Lui conosce le grotte, tutte le grotte. Vogliamo stare alla sua presenza e trovare in lui coraggio. Chiudiamo i nostri occhi. Che paura hai? Puoi vincerla stamattina, cominciando un percorso di conquista graduale, ma puoi vincerla stamattina. Scegliendo di intraprendere questo percorso. Il Signore ha una grande vita da farti vivere, grandi cose da farti vedere, grandi conquiste che potrai annunciare ad altri. Lascia la tua paura. Fidati di Dio questa mattina. Se vuoi lasciare delle paure, ti chiedo di alzare le tue mani al cielo. Vogliamo pregare il Dio di ogni consolazione, di ogni forza, finché Lui ti dia coraggio. Coraggio. Coraggio. Alleluia Gesù. Metti coraggio. Coraggio Gesù. Mettilo tu, Signore. Tu sei con noi. Tu sei con noi in quella cella, Signore Gesù. Tu sei con noi nel buio, Signore Gesù. Tu sei il nostro Signore Gesù, non la paura. Non ci lasceremo guidare dalla paura, Signore. Ci vogliamo lasciar guidare da te. Alleluia. Stiamo alla sua presenza, semplicemente. Arrendi il tuo cuore, anche senza dire niente, arrendi il tuo cuore. Con le mani alzate, arrendi la tua vita. Acquisisci la sicurezza che la tua vita resa a Lui è al sicuro. Anche quando è sotto minaccia, è al sicuro anche nella cella di una prigione. Arrenditi a Lui, Facciamolo insieme.